Dal 23 al 26 marzo prende il via il Bergamo Jazz, che è uno degli storici festival italiani. Per garantire poi scelte di qualità, la direzione artistica è stata affidata a una persona ben informata dei fatti, possiamo dirlo, perché è la nota cantante Maria Pia De Vito, che abbiamo al telefono e salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, come sempre un festival che ha il suo perno centrale al Teatro Donizetti, ma poi si apre all'intera città con diverse sedi. Sì, un festival che si sparge sulla città usando vari luoghi, alcuni sono dei luoghi storici bellissimi, delle piccole venue magiche. Diciamo, questa differenza tra il grande Donizetti e dei luoghi più raccolti significa la possibilità anche di presentare un ventaglio di esperienze musicali con la giusta dimensione, per rischiare anche, no? Per fare delle cose anche un po' di ricerca, che secondo me è fondamentale che ci siano in un festival. Quindi è molto bello questo poter lavorare su una situazione di questo genere. Quindi diversi protagonisti dislocati nelle diverse location, anche a seconda del genere in qualche modo. Sì. Diciamo, più che il genere è veramente la dimensione. Ad esempio, il primo concerto del giovedì è Amaro Freitas, che è un pianista eccezionale, molto particolare, che parte dalle sue radici, diciamo, un Brasile profondo, nordestino, con un sacco di influenze proprio anche della religione, dei culti, una forza incredibile applicata, diciamo, all'improvvisazione in una maniera veramente nuova, ecco, un personaggio molto particolare. Quindi il Teatro Sant'Andrea è un luogo molto, molto bello, raccolto per ascoltare questo grande musicista. Le giornate, dicevo, sono quelle che di questo weekend, dal 23 al 26, ma in realtà inizia anche prima il festival, e ha tante vicende che tu raccontavi, con questo finale, appunto, con personaggi famosissimi, Paolo Freso, Cecil McLaurin, Salvan, poi abbiamo Imbazzabacca, insomma, c'è di tutto e di più. Sì. Scena comunque bellissima e pulsante in questo momento, che è piena di diramazioni, quindi diciamo che ci sono da questi grandi personaggi, ma anche per esempio il meraviglioso batterista Joey Baron, che è veramente uno dei miei batteristi preferiti al mondo, che da collaborazioni infinite, insomma, da Zorn a Chiaramonti, per dire, e che si presenta con un programma che si chiama Mix Monk, con due giovani musicisti olandesi, ed è veramente proprio, come dire, il segno di un musicista che onora la vicina con assolutamente una lettura originale di un genio come mondo. Sono molte voci, questo mi piace molto. Da cantante a cantante, vero? Esatto. Ma apprezzo molto la cantante e compositrice, anche scrittrice di testi, certe capacità, come per esempio quella di David Lewis, che è secondo me il cantante punta, diciamo, europeo, che ha inventato un suo veramente mondo personale, ed è un grande lyricist. Lui è un figlioccio, niente di meno, che è di Baldwin, al quale ha dedicato il suo primo progetto in assoluto, e quindi un personaggio molto interessante. Dall'altra parte però, tra l'altro, questi sono appuntamenti che si svolgono nell'auditorium di Piazza della Libertà, che è uno spazio di media grandezza in città, e dall'altra parte troviamo Olifantre con Francesco Diodati, Stefano Tamborinelli, Laila Marziani, che è una cantante veramente strepitosa, provocativa, come si dice, una grande improvvisatrice, dall'ispirazione di più varie, ha fatto anche un lavoro sul canto dei pigmei, usa l'elettronica, quindi diciamo, ecco, una voce che si esprime in maniera completamente diversa. Poi io ho insistito molto in questi anni, finalmente sono riuscita ad avere Cecilia McLaurin Salvan al festival. Lei è una cantante, una compositrice, ma è un artista tutto tondo. Non manca il piano solo con Nick Barce o Django Bates dal Sudafrica. Io amo il pianoforte, diciamo, è proprio per me un argomento molto sentito. E Nick Barce lavora, lui proprio, come dire, veramente è un po' aderente al filo conduttore che gli ho dato quest'anno a festa, che è ancestrale e spirituale. Che intendo dire, non che tutto il genere sia spirituale o ispirato alla spiritualità, ma c'è una spiritualità agita, umana, nelle pratiche, diciamo, e in spazio è anche un maestro di arti marziali, applica in qualche modo la sua ricerca al suo modo di suonare e di sviluppare le sue composizioni. Django Bates è, diciamo, uno dei miei musicisti preferiti in assoluto, per me è davvero geniale, e quanto più laico possa esistere, diciamo, le sue performance sono sempre strepitose da un punto di vista musicale, ma hanno sempre dentro quel grano di sonino, di dissacrazione, che lo rendono veramente speciale, sia quando scrive per orchestra sinfonica oppure per lo studio Human Chain. È veramente un personaggio poliedrico e geniale, che suonerà nella Sala Piatti, che è un gioiellino di sala che è nella città. Una domanda sul tuo ruolo, perché ovviamente certamente affidare ad un esperto del settore come sei tu la direzione artistica è una decisione oculata, per non lasciare magari a qualche assessore sprovveduto nelle mani di qualche astuto manager chi rifila qualcosa, non del meglio, ma invece dal tuo punto di vista di artista quanto pesa questa responsabilità delle scelte? È una responsabilità grossa, cioè intanto per me quando mi hanno chiamato e mi hanno invitato a fare questa cosa è stata una sorpresa grandissima. Prima di me ci sono stati Louis Kane, Enrico Rava, Paolo Fresu, Mick Douglas, dopodiché una donna, una cantante del sud. È stata veramente una cosa che mi ha sorpreso molto piacevolmente. Detto ciò, la bellezza, diciamo, di questa esperienza, in questo evento, è proprio la libertà di poter scegliere, e poiché, diciamo, è della mia vita, della mia storia, il fatto di amare tante cose diverse e poterle mettere, diciamo, in campo, come dire, orchestrando come una grande partitura, insomma, è una cosa molto, molto bella. E ovviamente ci vuole un pensiero anche un po', non mi piace la parola, ma insomma è manageriale, nel senso che ovviamente se tu hai un teatro Donizetti che ha 1000 posti, li devi riempire. Questi sì. Sono pensieri che si fanno. E bisogna fare confrontarsi anche con la realtà, non solo con i desideri. Capisci? Perché certo. Voglio dire, io a volte mi innamoro di un musicista Giovanni Simo, meraviglioso, appena uscito, se lo metto sul palco di Donizetti mi faccio un cattivo servizio, no? Certo. Perché è troppo presto, perché magari il pubblico non viene, oppure, no? Cioè, ci sono tante cose da pensare, e in questo da musicista mi piace pensare anche, appunto, che scelgo dei musicisti adatti per le venue, ma nel ventaglio enorme di possibilità. Io sono sempre riuscita a invitare musicisti che mi interessavano, e sicuramente ho accanto a me un grande consigliere che è proprio, diciamo, l'assistente alla direzione artistica, che è Roberto Valentino, che collabora col Festival da 20 anni. Storico collaboratore. È giornalista, ma è di una competenza stellare. Quindi, diciamo, con lui abbiamo dei confronti a volte anche freccianti, diciamo, sulle cose, ma da questa dialettica poi viene fuori il programma che si vede, e io, diciamo, sono abbastanza contenta di quello che ho potuto fare finora.